Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e buona domenica a tutti dalla finestra sul cortile. Bavaglio? No grazie. In Italia giornalisti ed editori sono in allarme per il disegno di legge sulle intercettazioni in discussione alla Camera, che minaccia di limitare pesantemente la libertà di espressione e di stampa. Ma anche dove le maggioranze e i governi non mettono mano a questo tipo di provvedimenti e non cercano di addomesticare l'informazione scritta e televisiva, il giornalismo d'inchiesta boccheggia, vede ridotto il suo spazio sotto i colpi della crisi economica e di quella specifica dell'editoria. E allora qualcuno sta pensando di aggirare l'ostacolo facendo pagare le inchieste a chi? Ai lettori, ai telespettatori, al pubblico. È una formula praticabile? Salverà il giornalismo dall'asfissia di cui rischia di morire? E a proposito di inchieste, una studiosa afroamericana ha lavorato per 10 anni sul problema razziale in America e su come viene vissuto nel suo paese, arrivando a una conclusione sconcertante. Il presidente Obama è bianco. Vedremo perché. Intanto ascoltiamo che cosa prevede il sommario di questa puntata. America. Essere bianchi. Questione di cultura, non di pelle. Germania. Questa sera va in scena un videogioco. È l'esperimento della compagnia teatrale berlinese Rimini Protocol. Parigi. Visti dagli altri. L'amore ha i colori del cubo di Rubik nello spettacolo di Giorgio Barberio Corsetti. Francia. Il giornalismo investigativo? Lo pagano i lettori. Inchieste e reportage su richiesta su un nuovo sito web. Cuba. Nell'isola di Castro il telefonino è il principale mezzo di informazione. Era l'inconfondibile voce di Michael Jackson nel singolo Black or White del 1991, un disco che denunciava il problema razziale, un disco che è diventato praticamente oggetto di culto in America e non solo. Ma proprio sul problema razziale è uscito un interessante articolo sul quotidiano inglese Independent, firmato da Precious Williams, una scrittrice anglo-nigeriana, che in questo articolo recensisce un libro appena uscito in America di una storica americana, anche lei afroamericana, Nell Irving Painter, proprio a proposito del problema razziale. In questo libro la Painter sostiene di fatto che la razza non è un dato biologico, ma una sovrastruttura fluida, una sovrastruttura sociale fluida, così la definisce, completamente sprovvista di basi scientifiche, che in realtà è un dato culturale, per cui si può imparare a diventare bianchi. Neri si nasce, ma bianchi si diventa, e non schiarendosi la pelle come appunto fece Michael Jackson, ma imparando a comportarsi, a pensare, a parlare come bianchi. Scrive Precious Williams, che non approva interamente la tesi di questo libro di Irving Painter, che effettivamente la ricerca sul genoma umano ha dimostrato che ogni individuo della specie umano ha una sequenza del DNA che differisce da quella di ogni altro essere umano soltanto dello 0,1%, quindi una porzione minima del nostro genoma differisce da quello di tutti gli altri individui, e questa differenza non ha niente a che fare con la nostra appartenenza etnica o con il colore della nostra pelle. E sostanzialmente quello che sostiene Nell Irving Painter è che l'essere bianco, per esempio, in America è come essere upper class in Inghilterra. È una condizione sociale. Per esempio, il fatto di avere studiato a Harvard ti fa entrare, diciamo, nella classe privilegiata. Per cui, da questo punto di vista, anche il presidente Obama sarebbe nero soltanto per modo di dire, soltanto nell'aspetto fisico, ma non lo sarebbe dal punto di vista culturale e sociale. Ecco, ma a proposito di questa tesi, abbiamo un ospite a cui diamo il benvenuto e con cui vogliamo discutere proprio di questi temi, Telmo Pievani, filosofo della scienza e studioso dell'evoluzione. Ecco, da questo libro, insomma, esce una conferma che immagino per lei e per tutti gli studiosi di questa materia non è certo una novità, che la razza non è un dato biologico, ma possiamo ridurla a un puro fatto culturale, a una sovrastruttura fluida, come la chiama Nell Irving Painter? Questa è una provocazione ampiamente condivisibile, nel senso che la tesi di fondo è che se noi vogliamo capire che cosa intendiamo per modalità per discriminare le razze umane, dobbiamo andare a cercare nella cultura, nella costruzione sociale, dobbiamo andare a cercare nella storia che ha portato a una collocazione sociale di un certo tipo anziché un'altra, e non certo cercarla nei geni, nella biologia. Se posso dire, un piccolo difetto che c'è in questo approccio così radicale è quello che di richiamare in qualche modo una dicotomia che io credo sia ampiamente superata nella letteratura, poi tra cultura e biologia. Qui non stiamo dicendo che la biologia non c'entra niente, stiamo dicendo che non dobbiamo cercare nella biologia i confini tra quelle che abbiamo sempre chiamato razze umane. Tra l'altro, questo libro esce in un momento in cui sulle riviste scientifiche più importanti è uscito un paper molto divertente, secondo me, dove si vede che i geni connessi alla codifica della pelle bianca, quella bianchezza di cui parla tanto la Painter in questo libro, sono geni, tra l'altro, oltre che non così decisivi nel costituire la morfologia umana, sono anche molto recenti, pare che non abbiano più di 12-14 mila anni, quindi vuol dire che l'essere bianchi dal punto di vista evoluzionistico è un evento estremamente recente, che la norma era tutt'altra. Ecco, ci siamo dimenticati di dire, mi sono dimenticato io di dire il titolo di questo libro, che è The History of White People, la storia della gente bianca, e sarà pubblicato da Norton, e dall'editore americano Norton. Ma ecco, una delle obiezioni che solleva in questo articolo Precious Williams è che sia un bel dire che le razze non esistono, che siamo tutti uguali, però i media non fanno che buttarci in faccia quasi ogni giorno che i neri o gli immigrati stranieri hanno una maggiore probabilità di accoltellarsi o di delinquere, che vanno male a scuola più dei bianchi, che trovano con più difficoltà lavoro. Ecco, quindi le differenze ci sono e come, insomma, e quindi è difficile poi negarle. Sì, beh, il dissenso di Precious Williams è motivato sulla base dell'argomento classico della diversità, cioè lei dice: perché vergognarti delle diversità? C'è un esempio molto bello, sì, che si fa nell'articolo, dice: sì, ma io sono stata a una cena e c'è stato molto imbarazzo perché una commensale ha detto: ma io sono contenta di essere bianca, mi fa piacere perché è la mia storia. Sì, e tutti è un silenzio di ghiaccio. Questo è l'argomento classico in cui noi diciamo: certo, se noi pensiamo alla storia e anche alla fenomenologia esteriore nostra, perché rinnegare in qualche modo, in una sorta di indifferenza generale, le diversità individuali? Il punto però, secondo me, invece più interessante, più calzante, è che il fatto che le razze biologicamente non esistono, ma che il razzismo invece continui a persistere, è secondo me il segno che quella è una di quelle idee che ci piacciono da pensare, tutto sommato, cioè è un concetto culturalmente costruito, ma che è molto molto radicato, insomma, nella nostra coscienza. Bene, noi secondo me è perché, sì, fa riferimento al nostro modo di organizzare il mondo esterno per tipologie, noi altri, è molto molto successo obiettivamente. Non c'è dubbio. Ecco, noi ringraziamo Telmo Pievani, buona domenica e a presto. Grazie a voi, a presto. E ora ci spostiamo in Germania, a Berlino, dove un gruppo di artisti, conosciuto come Rimini Protocol, mette in scena i computer game negli spazi teatrali. Cosa succede? Che fino a 200 partecipanti controllano con i joystick i loro avatar virtuali proiettati su un maxi schermo, sperimentando un senso di collettività eccitata dall'antagonismo della partita. E mentre viene messa in scena questa insolita rappresentazione drammaturgico-informatica, i due curatori dell'evento, Helgard Haug e Stefan Keghi, possono dedicarsi soprattutto a un divertimento, forse il maggiore della serata, cioè quello di spiare le smorfie e le sensazioni dei propri attori giocatori. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. E come ogni domenica siamo allo spazio dedicato agli italiani famosi all'estero. Questa settimana andiamo a Parigi, al Teatro dell'Odeon, dove un autore greco, Dimitris Dimitriadis, mette in scena con un regista italiano, Giorgio Barberio Corsetti, una pièce molto particolare, molto originale, che si chiama La Ronde du Carré, potremmo tradurlo la cerchiatura del quadrato, l'inverso insomma della quadratura del cerchio, una pièce ispirata al famoso cubo di Rubik, che vede quattro coppie impegnate in complessi conflitti matrimoniali o erotici. E coppie che si chiamano tutte con nomi di colori, e tutte queste coppie poi si combinano come nelle facce di un cubo di Rubik. E quindi, grazie al nostro regista italiano Giorgio Barberio Corsetti, possiamo vedere a Parigi questa insolita pièce in cui praticamente si vede come risolvere i conflitti all'interno di una coppia può essere a volte complicato come risolvere l'enigma del cubo di Rubik. E adesso ci sono le notizie sul traffico, restate con noi. La finestra sul cortile. Avrete riconosciuto la sigla di un programma di grande successo che va in onda in prima serata ogni domenica sera su Rai 3, e noi diamo il benvenuto alla conduttrice Milena Gabanelli. Grazie di essere qui con noi e buona domenica. Salve, state bene tutti. Sì, insomma, cerchiamo di... però parliamo di un argomento, insomma, che fa star male. La domenica quelli per me è una giornata ansiosissima. E lo so, lo immagino, insomma, e quindi grazie, doppiamente grazie di essere con noi, nonostante l'impegno che sappiamo che le costa la preparazione di questa trasmissione. Ma con lei vorremmo parlare di una notizia che abbiamo trovato sul settimanale francese Les Inrecuptibles, un articolo firmato da Marjorie Philibert, che solleva il problema, il tema annoso, insomma, della crisi del giornalismo investigativo, di cui Report è per fortuna una eccezione in controtendenza, e ci dà una notizia curiosa, che è nato in America e sta per nascere in Francia qualcosa di analogo, un sito web intitolato, che si chiama spot.us, che in cui in pratica si cerca di finanziare le inchieste condotte dai giornalisti freelance con il contributo degli internauti, degli utenti, insomma, del sito. E in questo modo sono riusciti, pare, a racimolare ben $6,000 per sostenere un reportage sui rifiuti nel Pacifico. Quanti telespettatori in media ha Report? Dipende dalle puntate, dai 3 milioni ai 3 milioni e mezzo. Ecco, se ognuno pagasse un euro, insomma, si potrebbero fare probabilmente ancora più inchieste, ma naturalmente scherziamo, perché in realtà poi con il canone in qualche modo già in parte questo il giornalismo investigativo è finanziato dai telespettatori, purtroppo però come sappiamo è finanziato dal canone, direi. Noi abbiamo due break pubblicitari che forse pagano già interamente. Certo, questo è un altro elemento molto, molto importante. Ma che cosa ne dice di questa idea? Insomma, visto che lei l'idea oltretutto mi pare bellissima, perché coinvolgere direttamente chi legge o chi vede sulle scelte è un modo di responsabilizzarli, è un modo di decidere che cosa vuoi vedere. Certo è che con $6,000 è difficile poter fare un'inchiesta di quella portata, quindi con tutte le difficoltà del caso. Le inchieste sui rifiuti sono sempre molto complicate, richiedono tempi lunghi, con $6,000, ecco. Chiaramente non è sufficiente, nemmeno con una telecamerina portatile. Io penso che sarebbe un ottimo sistema per fare del giornalismo investigativo locale, che è quello che coinvolge di più le persone, le riguarda direttamente e può incidere a volte anche sui loro comportamenti. Questi finanziamenti potrebbero bastare, sono molto interessanti perché possono dare un aiuto ai nuovi giornalisti che escono, quelli che devono sperimentarsi, devono crescere e che proprio tutto a spese loro non ce la farebbero, quindi è un incentivo straordinario. Noi quando siamo partiti, quasi 14 anni fa, a me è stato dato uno spazio, quindi sono infinitamente grata, però uno spazio a costo quasi zero, vale a dire si pagavano a malapena i costi delle inchieste, era uno spazio in seconda serata avanzata di mezz'ora e i miei colleghi che cominciavano, allora era una squadra che si era creata attorno a un programma sperimentale, che cominciavano a lavorare da soli con le videocamere, che ho coinvolto in questo progetto, erano, come dire, così entusiasti di sapere di potersi pagare le spese e andare in onda. Certo. E questo ha dato modo ad un programma di crescere, di formare delle grandi professionalità e poi di andare avanti, ovviamente. Sì, quale inchiesta le ha procurato più ascolti? Se ne deve citare una in particolare, insomma. Allora, sicuramente le inchieste che trattano argomenti legati alla cronaca, quindi quando abbiamo ricostruito l'inchiesta Telecom, nel momento in cui è esplosa la questione del dossieraggio, certo. Quando abbiamo ricostruito la vicenda all'Italia, nel momento in cui era in vendita, non si sapeva la partita che giocava Air France o Lufthansa, non si capiva quale sarebbe stata la cordata che avrebbe preso in mano la questione, l'inchiesta che riguardava il sequestro dei beni, i beni sequestrati dalle procure, e si invitava il governo a formare un'agenzia che gestisse questi denari in modo un po' più razionale, invece di lasciarli depositati dentro le banche a fruttare a loro, no? Certo. Tutti questi temi che coinvolgono molto i cittadini, paradossalmente una puntata che aveva fatto un grande ascolto contro, era quasi contro le leggi di gravità, 3 anni fa è stata l'inchiesta sui derivati, tant'è vero che quando la proposi al mio direttore mi disse: i derivati del latte? Ecco, questo dimostra una cosa molto importante, visto che lei parlava prima del coinvolgimento del pubblico anche nella creazione, se vogliamo, dei palinsesti, no? Molto spesso sentiamo dire, in particolare dai nostri politici, che il pubblico vuole buone notizie, invece a quanto pare preferisce sentire anche cattive notizie, vuole sapere la verità, no? Questo. Beh, noi chiudiamo sempre ogni puntata con una rubrica che si chiama Good News da 10 certo, anni ormai, certo. E è sempre molto seguita. Dirò, si fa molta fatica a trovare una buona notizia che sia buona notizia a 360 gradi, a volte poi più scavi e più saltano sempre fuori aspetti che da good diventano bad. Quindi devi decidere qual è il confine entro cui circoscrivere la storia. Però l'interesse del pubblico, almeno per la mia esperienza, è quello di conoscere situazioni ed avere un'indicazione su come cambiare. Sì, quindi insomma aprire anche una porta alla speranza, al cambiamento. Non ama non avere per niente via d'uscita. Ecco, e diciamo, questo è comprensibile. Sì, certo, quindi bando ai catastrofi, quindi bando ai catastrofismi o al nichilismo. Ecco. Ce ne sono alcuni che, ai quali è difficile proporre una via d'uscita se non attraverso il cambio radicale delle classi politiche. Non c'è dubbio. Però il poter coinvolgere il telespettatore con un'indicazione su un mutamento di comportamenti, che questi indirettamente possono cambiare le cose, sono certamente le puntate che hanno maggiore successo e maggiore riscontro. Maggiore riscontro perché invitano il telespettatore a partecipare. Anche a un impegno. Bene, noi ringraziamo Milena Gabanelli, buona domenica, buon lavoro e a presto. Buona domenica a voi. E ci spostiamo a Cuba, rimaniamo sul tema delle nuove tecnologie, in un paese, in un'isola dove per cause che ben conosciamo di arretratezza internet e anche di regime politico oppressivo, internet è ancora poco diffuso, c'è un boom dei telefonini, tant'è vero che questi sono balzati in poco più di 2 anni da 600.000 a 838.000, eppure il costo delle tariffe è molto elevato, pare che si paghino 50 centesimi al minuto per ogni chiamata in un paese dove il salario medio è meno di $20, ma come scrive Nick Mirov sul Global Post, in realtà l'uso che ne fanno i cubani è proprio l'uso del cellulare e anche per scambiarsi messaggi e per comunicare con il mondo, perché è la circolazione delle notizie che nutre e fa crescere una democrazia e combatte anche i regimi oppressivi come quello cubano. Ogni tentativo di limitare questa circolazione è un passo indietro verso la tirannia. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buona domenica a tutti.